Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, Elizabeth. Ciao a tutti di nuovo da noi. Allora, le frequenze sono 98.6 per la bassa veronese, zona della Lessinia, e 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona di Garda e 94.7 per la Valpolicella. Radio RCS si può ascoltare anche in web streaming dal sito www.radiorcs.it. E dal beat inglese passiamo ad un nuovo fronte aperto riguardo alla musica del passato prossimo. Inauguriamo la sezione dedicata al Brit Rock degli anni 90 partendo dai Charlatans, band di Tim Burgess e John Brooks, che dal disco The Charlatans del 1995 ci hanno fatto ascoltare la canzone Just Looking. Formazione tuttora attiva che, nonostante sfortune e cambi di formazione, è sopravvissuta fino ai giorni nostri senza risentire di un calo di seguito. Qual è secondo voi il segreto dei Charlatans? Beh, non saprei dirlo qual è il segreto. Anche secondo perché me... è un segreto. Esatto. Non si potrebbe dire. Però direi una cosa interessante loro, che sono soprattutto hanno sempre fatto roba autoprodotta. Sono molto indie su questa roba qui. E secondo me potrebbe essere questo il segreto loro. E comunque sono molto legati all'origine loro inglese. Cioè, le sonorità che toccano sono veramente... cioè, puoi sentire della roba, non so, dagli Oasis agli U2, cioè, li senti molto vicini, in ogni caso, secondo me. È come se avessero creato degli standard. Sì, esatto. Ne parlavamo prima mentre lo ascoltavamo. Esatto. Anche i fill di batteria o alcuni giri... armonici, esatto, passaggi, ritornelli. Sembrano proprio gli standard classici inglesi, ecco. Questo potrebbe essere il segreto. Ruggine, il titolo del vostro disco, qual è il significato che sta dietro questa parola? Beh, è ruggine, pronunciato con due G e i denti chiusi, come si pronuncierebbe a Reggio Emilia, cioè dalle nostre parti, oppure in dialetto reggiano persino, che sarebbe tipo rosna, a denti stretti. Esatto. Sta a significare un po' tutta, a livello di suono, un po' tutta la rabbia che noi avevamo in testa e che volevamo riuscire a mettere in questo disco. Che non era una rabbia di, non so, spacco giù tutto. Era una rabbia più da incazzatura, ecco. Tant'è che tipo, ruggine oltretutto credo che sia tutto quello che c'è sui nostri strumenti. Cioè, se uno guarda la nostra chitarra, il suo Leslie, roba di questo genere, c'è totalmente ruggine, polvere e tutto ciò che è sporcizia, credo che sia alla base, così come anche nel suono, ecco. Senti ancora nel mio Leslie l'odore del vecchio a volte quando partono le trombe. È vissuto, ecco. Sì, sì. È arrugginito. Nel 1996 viene pubblicato Mosley Shoes degli Ocean Color Scene, che conquistano le vette della classifica in quell'anno. Da quel disco, la canzone The Day We Caught a Train. Never saw it as the start. Small change of heart. Rapping on the windows, whistling down the chimney pot. Blowing up the dust in the room where I forgot. I laid my plans in solid rock. Stepping through the door like a troubadour, wanting just an hour away. Looking at the trees on the roadside, feeling it's a holiday. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. A brighter day. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Roll a number, ride another song like Jimmy heard the day called the train. just waiting through tomorrow. And you and I, when we're coming down, we're only getting back. And you know I feel no sorrow. Un'altra delle band inglesi poco apprezzate, almeno in Italia, ma con idee originali e creative. Cosa ne dite? Beh, guarda, io non sono d'accordissimo, soprattutto sul fatto poco apprezzate, perché in realtà c'è un pezzo, Better Day, che è stato uno dei brani più trasmessi che ci siano mai stati in Italia loro. Che sarebbe poi, che questo poi sia stato un plagio dei Luna Pop è un altro conto, beh. Però esatto, il concetto è che in realtà solo gli italiani hanno bisogno di scoppiazzare. Esatto, sì, ma soprattutto a livello anche gli ascoltatori hanno bisogno di sentire che una cosa è stata copiata, allora gli piace. Forse c'è questo problema. Però al di là di quello, invece loro sono sono molto legati agli U e ai Beatles. Perciò direi che sotto questo aspetto anche noi a me piacciono molto. Io li appoggio in pieno, non so te. Anch'io li appoggio in pieno, però effettivamente quello che da dire non è che non siano apprezzati in Italia, che è difficile trovare dei canali, secondo me, in Italia per fare, sì, dei brani così. Verissimo. Perché se tu fai un brano epico, diciamo, con tutte queste cose qua, a chi lo dai? Da passare, da promuovere, non lo dai a nessuno. No, poi, secondo me puoi venire qui a RCS e RCS, insomma, okay. Sicuramente che è un'ottima cosa. Insomma, dai. Te la puoi giocare qua, con un pezzo così. Quali sono state finora le maggiori soddisfazioni come band? So che avete suonato di spalle ad artisti noti, ne parlavamo prima. Ecco, infatti abbiamo fatto bene a bloccarci prima. Perché altrimenti poi non ne potevate rispondere. Perché questi artisti, come abbiamo detto prima, erano Max Gazzè, Alex Britti, Elio Le Storie Tese, quando abbiamo suonato ai Magazzini Generali a Milano. È un'ottima esperienza, anche perché sono tutte e tre persone e anche gruppo. Tre artisti molto grossi che sanno suonare i loro strumenti veramente, veramente, veramente bene. Quindi no, è stato quasi imbarazzante suonare, esatto, dopo Max Gazzè. Devo dire che è stato parecchio imbarazzante, nel senso che io sono un fan di Max Gazzè, suonare dopo per me era un problema, ecco. Io soffrivo di questa cosa. Immagino. cioè, bellissima esperienza. Però, tipo, non so, uno degli aspetti, uno dei momenti che più soddisfacenti in realtà di questo momento, secondo me, è stato, per me almeno, è stato fare il master dei singoli a New York da Howie Weinberg. Cioè, che è quello che ha masterizzato Nirvana, Smashing Pumpkins, cioè è il numero uno. A pensare che abbiamo masterizzato anche il nostro singolo, cioè, per me spacca il culo la cosa, bellissimo. Sì, hai perfettamente ragione. Io, per esempio, devo ancora capirlo, quella cosa lì. Quando me ne renderò conto, allora magari sì, anche avanti, per me magari... E allora chiudiamo la seconda parte con gli Oasis, degli esordi. Giusto nel 1994 veniva pubblicato il loro fortunato esordio Definitely Maybe, che spostava l'attenzione dei media dal rock americano a quello inglese, rimettendo in luce la scena di Manchester dopo una decina d'anni. Da quel disco ci ascoltiamo Supersonic. Noi ci ritroviamo in breve per la terza parte di Rock Legends, quando ascolteremo sei brani del disco degli Elizabeth dal titolo Ruggine. Non mancate!